da Roma, finalmente, con uno studente medio, giusto? Sei in diretta o no? Ci senti? Mi senti? Sì, io ti sento, tu mi senti? Ok, perfetto. Quindi a che punto state? Che cosa vedi intorno a te? Com'è la situazione? La gente è felice? Non lo so, i contenuti quali sono? Dunque, guarda, noi abbiamo appena girato da via Cavour, siamo sui Fori Romani, stiamo dirigendo verso Piazza delle Merce, che è la piazza di fine del quartiere autorizzato, ma comunque insomma l'obiettivo lanciato pubblicamente da noi studenti, sia dai medici che dagli universitari, è il Senato, perciò adesso stiamo ricomponendo il corteo, ci stiamo compattando, stiamo facendo i cordoni davanti e procediamo molto determinati. Adesso vedremo come comportarci a Piazza Venezia. Per adesso le forze dell'ordine si sono dimostrate amabili, nel senso che non ne abbiamo praticamente visto, non so se ci preservano una bella sorpresa a Piazza Venezia, speriamo. Speriamo. Senti, ma no, beh, diciamo il corteo, cioè, c'è un motivo per cui procede così lentamente oppure è semplicemente perché... Guarda, se ho sentito a scatti, ma se ho capito bene, se c'è un motivo per puntare al centro. No, chiedevo se c'è un motivo per il quale il corteo sta andando così lento, perché... No, guarda, ci sento proprio a scatti, praticamente zero. Vabbè, non fa niente, diciamo... Mi dispiace. Vabbè, dai, ci risentiamo più tardi allora, casomai. Mandiamo un po' di va bene, ci riaggiorniamo.